Che le radici e la cultura ti ricordano chi sei, ma i valori rimangono uguali ovunque tu stai. Sì, allora senti l'olore lupudiano che ti canta. Oh oi, calo mundo condominio. Oh oi, tra un ponte ed un bivio. Tra i suoni e i colori del barrio, la vita è sempre dovunque un passio. Oh oi, calo mundo condominio. Tra i suoni e i colori del barrio, la vita è sempre dovunque un passio. Dove vado, vado, vado, vago per la strada, vagabondo ogni momento di ogni giorno. Perso tra i rumori della gente che diventa il mio silenzio, nuovo è tutto ciò che è intorno. Ma dopo i primi istanti dove tutto pare inedito, mi fermo, penso e dopo un po' mi accorgo che tutto ciò che capita alla gente si ripete in altre forme in tutti gli angoli del mondo. Le case al centro sono umide, dalle facciate ruvide, dentro persone timide, ehi, chiuse da un pudore che risulta a volte inutile, che vive solo in parte tutto quello che può vivere, ehi. Calo mondo un condominio, oh oi, tra un ponte ed un bivio. Tra i suoni e i colori del barrio, la vita è sempre dovunque un passio. Oh oi, calo mondo un condominio, oh oi, tra un ponte ed un bivio. Tra i suoni e i colori del barrio, la vita è sempre dovunque un passio. Amici sull'amici tu ovunque tu vai, le radici e la cultura ti ricordano chi sei. L'amore e la passione sono le armi che hai per andare avanti e questo lo sai. Lontano dalla terra i cui frutti ti sfamarono, distante dalle storie che gli ranni ti insegnarono. Una chiesi pensa che i politici non barano e chi l'omini d'onore non sono chi dica governano. E ovunque per le strade guardano tra le finestre, diverse le persone, le espressioni le stesse. Dietro le persiane vige vivo interesse, sai, per altre storie ed altre esperienze. Ma hai calo mundo un condominio, oh oi, tra un ponte ed un bivio. Tra i suoni e i colori del barrio, la vita è sempre dovunque un passio. Oh oi, calo mundo un condominio, oh oi, tra un ponte ed un bivio. Tra i suoni e i colori del barrio, la vita è sempre dovunque un passio. Se alla tele solo pubblicità, è per strada che si trova tutta la verità. La gente più non campa, la gente compra, perché il mondo intero è tutto quanto in vendita. E intanto per le strade guardan tra le finestre, diverse le persone, le espressioni le stesse. Dietro le persiane vige vivo interesse, sai, per altre storie ed altre esperienze. Ma hai calo mondo un condominio, oh oi, tra un ponte ed un bivio. Tra i suoni e i colori del barrio, la vita è sempre dovunque un passio. Oh oi, calo mondo un condominio, oh oi, tra un ponte ed un bivio. Tra i suoni e i colori del barrio, la vita è sempre dovunque un passio. Cecilia, ah Cecilia, coño, la cosa nostra. Guapo, muy guapo, guapísimo. Tiene suerte de haber nacido en la isla más famosa del mundo. Sí, tiene una isla más famosa del mundo.